Potremmo forse cominciare. Il tema è un tema che è stato spesso evocato in questi giorni, quindi penso che darà luogo a discussione, a interesse. Ein Wort allein, die Raben schon in den letzten Tagen von Jesuiten, Missionären gesprochen. Nun, wir werden Girolamo Imbruglia hören. Imbruglia hat in scuola normale superiore studiert, ich erinnere sein Buch, L'invenzione del Paraguay. Erat in Archivum Historicum Societatis Jesu in Rom studiert und nun wird sprechen ideali di civilizzazione e di nuovo mondo, la compagnia di Gesù alla fine del Cinquecento. Grazie. Sì, vorrei un attimo chiarire l'oggetto della mia relazione e in qualche modo vorrei forse prendere le mosse dalla conclusione di quella di ieri del professor Vivanti, che si è conclusa appunto con l'analisi della posizione di Montaigne. Una posizione in un certo senso paradossale per quello che riguarda il tema stesso del nostro convegno. In fondo dovremmo parlare della coscienza europea e Montaigne è, come è ben noto, colui che la coscienza europea ha disintegrato, mostrando appunto la caducità di questa nozione quasi millenaria. Parlerò in conclusione invece di colui che questa coscienza ha cercato di ristabilire, affermando di nuovo con forza il diritto degli europei alla civilizzazione, cioè di Acosta. In qualche modo è una contrapposizione quasi esemplare. Da un lato il pensiero scettico che si avvia alla demolizione di queste certezze proprio partendo dalle scoperte americane, dall'altra invece i gesuiti, con questo grandissimo loro missionario, che proprio partendo da queste scoperte elaborano una strategia di intervento, forme di conoscenza, modi di accostamento che saranno poi di straordinaria importanza. Di straordinaria importanza non soltanto nel mondo cattolico, io credo, ma costituiscono uno dei piloni, una delle tappe e forse una delle più importanti nella formazione proprio della coscienza occidentale, del modo di approccio, di contatto e di conquista degli altri mondi. Ora, proprio per intendere come durante il Cinquecento si sia venuta elaborando questa risposta da parte dell'Europa di fronte alle conquiste, ho pensato di dover distinguere in qualche modo la storia, no, della formazione di questa coscienza e dunque cercare di studiare dapprima come e perché si costruisca una particolare figura, quella del missionario, come e perché cioè nasca negli ambienti europei una particolare tendenza, una particolare tensione verso le nuove scoperte, tendenza e tensione che prende e si configura in forme radicalmente nuove rispetto al passato. D'altronde basterà notare, come è evidente, che la Compagnia di Gesù nasce dopo le conquiste, nasce cioè quando ormai una sensibilità cinquecentesca si sta già sviluppando. Vorrei quindi in primo luogo cercare di studiare in che senso esista questa sensibilità missionaria, perché e in che modo della Compagnia di Gesù si guardi verso le Indie orientali e occidentali e poi in che modo questa tensione prenderà forma nella teoria della civilizzazione di fine Cinquecento, nel pensiero cioè dei gesuiti che vanno nell'America Latina. Per quello che riguarda allora la prima parte della mia esposizione, un punto di partenza utile, anche se vedremo poi utile fino a un certo punto, è un fondo che si trova depositato all'archivio della Compagnia di Gesù, il fondo detto Indipetentes o Indipeti. Si tratta delle lettere che venivano mandate in richiesta per partire missionari. Questo fondo lo descrivo brevissimamente, io non ho fatto molto più che qualche sondaggio, è un fondo diviso grosso modo in tre parti. Abbiamo il fondo italiano, il Fondo Italia, che copre una decina d'anni tra gli anni 80 e gli anni 90. Abbiamo il Fondo Compagnia di Gesù, che che va dalla fine del Cinquecento fino alla fine dell'antica compagnia, ed è quindi un fondo smisurato, e questo è propriamente il fondo Indipiti. Lettere di gesuiti che volevano andare alle Indie si trovano per l'innanzi dal 1558 agli anni 80 sparse nei vari fondi regionali, fondo Hispanicus, fondo italiano, eccetera. Dico dal 1558 perché è nel 1558 che la Inez dispone che tutte le lettere che provengano da gesuiti vengano progressivamente centralizzate gerarchicamente fino ad arrivare a Roma, e lì le abbiamo. Inoltre c'è un registro di tutte le lettere ricevute, nel senso che se per incendio o altro parte di queste lettere sono andate disperse, comunque possiamo sapere quali siano stati i gesuiti che abbiano chiesto di essere mandati alle Indie, e quindi eventualmente controllare se qualcuno di loro ha chiesto per davvero quello che altrove può dire di aver fatto. Ora, di fronte a questo fondo, se lo si comincia un po' a sondare, si scopre subito qualcosa di particolare. Cioè ci si immaginerebbe di trovarsi di fronte a delle lettere particolarmente originali, a delle forme di richiesta di partenza per le Indie, talora anche drammatiche. Il bisogno, cioè, un'espressione, per così dire, di una sensibilità, di una spiritualità che ci faccia già cogliere in qualche modo una individualità definita. Colui che vuole andare alle Indie ce lo potremmo immaginare come qualcuno che abbia già una sua particolare, un suo particolare profilo. Direi, dai sondaggi che ho fatto, a parte alcune eccezioni, che questo non è il caso e che piuttosto nella contrapposizione individualità-uniformità prevale di gran lunga il secondo termine. Voglio dire che quasi tutte queste lettere sono costruite secondo un ben preciso schema, che tra poco vedremo, ma che comunque già lascia trasparire il primo elemento assolutamente evidente, forse banale, ma è un dato di partenza. Cioè, sono lettere di gesuiti, non sono lettere di persone che vogliano entrare nella compagnia per poi partire alle Indie. Sono lettere di gesuiti che nella loro esperienza nei collegi, di novizi, cominciano a maturare questa esigenza di partire per le Indie. Quindi la tensione per la scoperta delle Indie è una scoperta, una tensione mediata dall'insegnamento gesuita. A questo punto una brevissima fonte, la lettera di un gesuita, Niccolò Blanca, che scrive negli anni 60: «Ho sempre avuto sin da giovane il desiderio di andare alle Indie. Quando incominciai a venire alle vostre scuole a causa di un maestro a questo affezionato, Michele Veltrano, il quale fu mandato con altri alle Indie e ivi morì, come intesi, per le polizze degli suffragi». Sicché due elementi da questa testimonianza emergono. Innanzitutto questa dimensione di gruppo, per così dire. La scoperta delle Indie viene fatta dai missionari in gruppo, dentro i novizi. C'è questo rapporto, diciamo, di far parte di una totalità. E in secondo luogo attraverso una figura specifica, quella del direttore. È inutile che io qui sottolinei l'importanza che la direzione spirituale, questa scoperta della Compagnia di Gesù, ha avuto nella formazione della spiritualità gesuitica in genere cinquecentesca. Certo, questo è un filo molto chiaro. E così ci possiamo spiegare l'altro elemento che pure emerge con nettezza da questo fondo: la prevalenza delle richieste per andare verso le Indie orientali anziché verso le Indie occidentali. Si potrebbe dire che i gesuiti fanno l'inverso di Cristoforo Colombo. Colombo aveva scoperto l'Occidente pensando di andare ad Oriente. I gesuiti vanno a Occidente, ma prima passano per l'Oriente. Il valore paradigmatico che ha per loro l'esperienza missionaria nelle Indie orientali è fortissimo. E naturalmente è fortissimo perché si potrebbe dire, una delle spiegazioni, per limitazione. In fondo la passione dominante, no, della Compagnia di Gesù, il valore affettivo in qualche modo centrale, è, come sappiamo, quello dell'imitazione. E avevano davanti esempi soprattutto indiani orientali, per così dire, da poter imitare: il protomartire Antonio Criminale e soprattutto Francesco Saverio. L'esperienza di Francesco Saverio diventa effettivamente l'esperienza prototipo, il modello in cui incanalare la tensione missionaria, la conoscenza stessa delle Indie, la volontà di intervenire è mediata sulle lettere, sull'esperienza, sull'esempio di Francesco Saverio. Francesco Saverio aveva dato alcune indicazioni su quello che intendeva essere il lavoro missionario. Innanzitutto, in una lettera famosa del 1544, poi subito pubblicata, rivolgendosi a quanti stavano nelle università, li accusava di una grave colpa. Invece di andare nelle Indie e salvare le anime, quindi, di quanti non conoscevano la parola del Vangelo, continuavano a studiare. Era dunque a questa loro passione per gli studi che bisognava far risalire la perdita di tante anime. Una contrapposizione drammatica che ebbe molto effetto, che indusse molti, tra l'altro il Nadal e il Borgia, per citare i più famosi, a entrare appunto nella Compagnia di Gesù. Non credo che sia il caso di richiamare una sorta di protoghetiana distinzione tra l'albero della vita sempreverde e invece gli studi che appassiscono. Direi che sono due modi di intendere la vita religiosa che Francesco Saverio cerca di saldare, un'attività in cui si possa calare la tensione degli studi, la conoscenza della parola. E questa fu la ragione della grande fortuna di Francesco Saverio. In un testo redatto dal Polanco alla metà degli anni 50, in cui si indagava cosa fosse la Compagnia di Gesù e quali fossero le strade da seguire per incrementarne l'ampiezza e la forza, giunto al capitolo De operaris in indis mittendis, Polanco scrive che vanno scelti non talento in litteris, sed virtutibus donatus. È naturalmente la ripresa, quasi la legittimazione ormai anche teorica, dell'esperienza che Francesco Saverio aveva proposto. Francesco Saverio aveva aggiunto in un'altra lettera una singolare indicazione che pure può essere interessante. Aveva detto che aveva scelto certi spazi per le sue peregrinaciones lì dove mancavano ufficiali degli stati europei. Per lui la civilizzazione era lì, l'evangelizzazione era più facile, era da farsi senza il contatto, senza il confronto, senza il controllo dell'ombra degli stati. E anche questo è un elemento che dobbiamo tenere presente in queste fantasie che si vanno costruendo in questo mondo gesuitico, questa capacità di poter avere larghi spazi, possibilità di incontrare un'umanità nuova in un modo nuovo, senza una presenza che potrebbe imbarazzare questa scoperta di un nuovo contatto. Ancora degli elementi, credo si debbano ricostruire per intendere questa formazione di una figura missionaria in questi anni. E naturalmente un elemento famoso è quello dell'apprendimento delle lingue. Si sa che i gesuiti avevano un titolo di merito, peraltro assolutamente reale, questa loro attenzione e volontà di comprendere le lingue nelle quali dovevano farsi intendere, ma nelle quali anche riuscivano a intendere naturalmente le popolazioni appena scoperte. Ora, è certamente un elemento tecnico, per così dire, ma si sbaglierebbe a scorgere in questo solamente un elemento tecnico. V'è, per così dire, un investimento di spiritualità fortissimo e per renderlo vorrei ricordare un missionario assai più tardo, il Brebeuf, un missionario francese che andò in Canada vicino all'ambiente di Charlemagne, quindi di Berulle, che per questo però io credo possa essere avvicinato a questa primitiva spiritualità della Compagnia di Gesù. E il Brebeuf scriveva ai suoi confratelli di Francia dicendo: potete essere anche grandi dottori di teologia in Francia, ma quando venite qui dovete farvi scolari. E scolari di chi? Di donne, di selvaggi, di bambini, ed essere esposti alla loro derisione. La lingua aurona sarà il vostro San Tommaso e vi dovrete decidere, dovrete sapere di restare per lunghi anni muti prima di riuscire a balbettare qualcosa. Perché dico che c'è un investimento che a mio parere è importante? Perché c'è questa esigenza e questa consapevolezza di mortificazione. In qualche modo, attraverso lo studio della lingua, il gesuita realizza uno dei punti che è molto importante in quegli anni nella sua formazione: il bisogno, il desiderio in qualche modo di morte, l'idea di poter scomparire, di rinnegare la propria individualità per così accedere a una dimensione più profonda, naturalmente sentita come più vera e più ampia. E naturalmente, infine, la preghiera. Vorrei ricordare quello che Valignano scrive a proposito di Rodolfo Acquavivo, un missionario che stava nelle Indie orientali, in una lettera annua nel 1585. I suoi studi vertevano non libris aut cartis, sed aut orando, aut per discenda lingua persica. Quindi questo sforzo di ritrovare nella preghiera e nell'apprendimento della lingua, in primo luogo, la radice della propria attività missionaria. Ed infine il terzo punto che completa questa formazione di una individualità, di una figura, di una persona del missionario, naturalmente la volontà, quasi l'entusiasmo del martirio. Vi è una bella, tra le tante, descrizione di Nadal su cosa sia il compito del missionario gesuita. Lui lo paragona esplicitamente, naturalmente, alla Chiesa primitiva. Dobbiamo imitare la Chiesa primitiva, dobbiamo imitare i primi apostoli, dobbiamo fare come loro. Dunque, prima bisogna conoscere cosa sia la compagnia, poi bisogna studiarvi, ne siamo educati, riceviamo una destinazione, vi siamo mandati, vi esercitiamo il nostro ministero, siamo preparati a morire in queste funzioni, in questo esercizio. Troppo lungo, credo, sarebbe qui affrontare allora la realtà e il problema di che cosa sia la preghiera, pur tuttavia essenziale se solo teniamo presente alcune lettere di questi indipetiti, no? Per esempio quella di Vespasiano Bonamici del 1598. E come posso io lasciare questi piaceri del corpo? Con l'andare alle Indie. Finirò la mia vita in un letto. È possibile io finire la vita in un letto et Cristo in croce? Non ce la finirò, almeno dal canto mio, se io vado alle Indie. Oppure Girolamo Poerio, nel 95, il qual desiderio ebbe principio al tempo che facevo gli esercizi spirituali della compagnia, nella casa di probazione di Napoli, dopo alcuni mesi di noviziato. E potrei ricordare anche la lettera di Acosta, appunto del missionario di cui poi discuteremo, che riprende proprio questo spunto e sottolinea il valore che ebbe per lui la meditazione su quella parte degli esercizi che si chiama dell'incarnazione. È interessante questa riflessione sull'incarnazione di Acosta, perché nella lettura degli esercizi si scopre che lì è l'unico momento in cui si possa ritrovare la dimensione escatologica, è l'unico momento in cui Ignazio accenni alla plenitudo temporis. E dunque possiamo immaginare, possiamo cercare di saldare qualcosa, abbiamo un elemento. In questa formazione del missionario, in questa riflessione sugli esercizi spirituali, affiora, emerge, si fa sempre più forte una dimensione millenarista che diventa una delle molle, una delle spinte significative allo slancio missionario, alla conquista del mondo. Ed ancora, naturalmente, varrà la pena di sottolineare questa singolare formazione della preghiera gesuita che cerca di mettere insieme ascetismo e misticismo intorno alla nuova definizione di cosa sia la facoltà dell'immaginazione. Questa sottolineatura del come se, no? Il gesuita deve sempre pensare, maturare delle esperienze come se, al limite, al margine, facendo delle ipotesi irreali che però possano mettere in luce la propria verità. Questo itinerario lo porta all'indifferenza, quello che avevo già detto, il desiderio di morte al mondo, la capacità di presentarsi in grado di individuare quello che sia il giusto desiderio, che è quello poi appunto naturalmente della giusta natura. Ora, questa complessa situazione emotiva che può trasparire dai documenti la si ritrova anche in un bellissimo testo, nella biografia di Luis de la Puente di Alvarez. Alvarez era un gesuita vicino, tra l'altro, a Teresa di Avila, sospettato di costeggiare il mondo degli alumbrados. Mercurian non lo ebbe certamente in simpatia, fu osteggiato, fu a lungo, per così dire, inquisito nella compagnia, i suoi libri non erano graditi. Alvarez, in questa biografia, lo vediamo direttore del Collegio dei Novizi e ci racconta che alla fine degli anni 60 a Granada in Spagna fu avvicinato da un gesuita, il de la Mata, poi destinato al Giappone, che gli pose una domanda precisa, secca: se un'anima che rischia la vita nelle missioni è sicura d'essere salva. Ecco, è proprio questo il sentimento principale con il quale credo dobbiamo intendere questo slancio missionario. E la risposta di Alvarez è significativa. Lui risponde che è un maestro di spirito, che quello che conosce è la scienza dello spirito. Quindi a questa tensione verso, per così dire, la vita pratica del dell'amata, la risposta, una delle risposte di Alvarez, sottolinea, direi, il lato di contemplazione. ma si sbaglierebbe a immaginare che questa fosse soltanto la linea. Lo stesso Alvarez, nello stesso libro, ci viene presentato come appunto il direttore di questa casa dei novizi, nella quale un giorno arriva il procuratore della Compagnia di Gesù perché cerca qualcuno disposto a partire per le Indie. Tutti sono disposti a partire per le Indie. Bisogna anzi frenare questo slancio, se ne scelgono 5 solamente e agli altri si promette che verranno presi in considerazione dopo. Come dice il biografo, era riuscito Alvarez a unire il fervore del noviziato con la professione delle lettere. Contemplazione e pratica dunque. In qualche modo il missionario, colui che vuole partire per le Indie, è effettivamente la figura simbolo della Compagnia di Gesù, se ricordiamo quella formula veramente efficace di Nadal, et in azione simul contemplativus, riuscire a tradurre, cioè nella pratica, questa nuova energia spirituale. Che cosa voleva fare? Che cosa faceva il missionario? Perché partiva? In che modo intendeva riuscire a saldare questi aspetti dell'azione e della radice contemplativa, per così dire? Vi è un documento molto bello che riguarda Antonio Criminale, il protomartire della Compagnia, un italiano che partì per le Indie orientali. Ci viene descritto in questo momento della sua partenza. E nel prendere l'ultima licenza, tutti, così uomini come donne, li accompagnammo in processione gridando che erano santi e che andavano ad essere santi martiri. Antonio finalmente ci si rivolse indietro e, vedendo tanto popolo inginocchiato che chiedeva la benedizione, alzò gli occhi al cielo, stese la mano e ci benedisse tutti. Et con allegra faccia, ridendo come se andasse a nozze, seguì il suo viaggio, lasciando tutti pieni d'ammirazione e d'una santa invidia di seguirlo. Era mosso da un fervore straordinario e di estasi, e da estasi di carità. Ecco, in qualche modo questa credo sia una delle rappresentazioni che ci può far capire questa radice di imitazione, questa scena già un po' manierista, questo predicatore, questo gesuita che si volge verso il popolo, che si ritrae ma che al tempo stesso naturalmente è indotto a guardarlo e in qualche modo sente di avervi di suo potere. Lo stesso Nadal, fingendo un dialogo tra lui e un protestante, metteva in bocca a un protestante una frase singolare: i gesuiti vogliono essere gli apostoli ed anche il Papa. Vedo dunque questo sentimento, no, di onnipotenza in qualche modo che prende le forme in questa immagine. Ma naturalmente, l'ho già detto prima, questo stesso sentimento di onnipotenza non si può disgiungere da questo sentimento di morte, da questo sentimento di indifferenza. Partivano dunque per le Indie questi missionari, ma per trovarvi che cosa? Non solitudine. Scrive Nadal: chi vuole sempre orazione, solitudine, a chi piace il ritirarsi e il fuggire gli uomini e non li cerca per aiutarli, non è per la vocazione nostra. Ecco, compare qui l'altro elemento che naturalmente è fondamentale per intendere il perché avvenga questa mediazione dal mondo delle Indie. Il bisogno c'è in qualche modo di andare non solo al servizio di Dio, ma al servizio del prossimo. E si configura qui dunque l'esperienza della missione. Habitationem, dice il Nadal, per il gesuita deve essere null'altro che il non avere habitationem, che lo stare sempre sulla strada. E l'ideale della peregrinazio, di questa immediata, pronta partenza per testimoniare la parola del Vangelo. E il quarto voto, naturalmente, questa disponibilità immediata appunto ad andare dovunque, che è l'espressione, io credo, di quella radice millenarista che ancora negli anni 50 e 60 è così viva e che costituisce una delle anime della Compagnia di Gesù. E che viene testimoniata da tanti, basterebbe ricordare le testimonianze di Postel e di Lumnius a proposito appunto di queste colombe, no, che debbono andare subito in movimento per testimoniare questa dimensione della parola evangelica. Negli avvisi alle Indie, un piccolo testo che comincia a girare nel 1552 e nel quale queste Indie sono davvero entrambe, perché si trovano relazioni dalle Indie orientali e relazioni dalle Indie occidentali, vi è una espressione significativa: vanno i gesuiti tra i pagani e gli infedeli, i quali ultimi dicono che siamo venuti qua non solo per amore degli cristiani, ma per insegnare anche a loro la legge della natura. Ecco, qual è la legge della natura? Naturalmente è questa legge molto remota, questa verità assai antica, che all'improvviso sembra venire incontro a questi missionari animati da questo sforzo. In questo piccolo libricino delle avvisi alle Indie, oltre a vari documenti che riguardano l'attività di Francesco Saverio, vi sono anche delle lettere di un gesuita, il Nobrega, che negli anni 50 arrivò nel Brasile e lì scrisse un piccolo trattatello sul trattato delle conversioni delle genti, che è stato anche ripubblicato. Abbiamo qui, credo, la vera espressione di quella che si chiama conquista spirituale. Direi non tanto perché distinta dalle armi, questa per verità... In fondo i gesuiti sapevano tenerle, sapevano appoggiarci. Conquista spirituale perché direi legata alla dimensione spirituale della Compagnia di Gesù, legata proprio a questa a quest'anima. E il Nobrega dice come conquistare allora. Bisogna saper dialogare, bisogna saper entrare nel mondo delle società che si vogliono conquistare, bisogna divenire parte dell'orizzonte, bisogna sapere anche utilizzare quello che si trova. Non si può dire che questi selvaggi non conoscano una divinità, non abbiano religione. Magari hanno, come poi diranno i gesuiti con una bella formula, superstizione ma non religione, il che è già un paradosso perché, come si sa, superstizione è eccesso di religione e com'è possibile avere un eccesso di qualcosa senza avere il qualcosa stesso. Comunque è un canale che Nobrega ed altri sapranno sfruttare cercando così di trovare la possibilità di introdurre la credenza cristiana, di insensibilmente, per così dire, cambiare la rotta di queste credenze ed indirizzarle verso un altro polo. Questo è dunque il trattato della conversione, non appoggiarsi sulle armi, piuttosto riuscire a dialogare con i popoli che si vogliono conquistare. L'Alvarez doveva andare in Perù, doveva divenire anzi provinciale del Perù, e il suo biografo, parlandone, si dice sicuro che con quel suo grande spirito e zelo avrebbe promosso non tanto nei nostri il fervore quanto provocato negli indiani la loro conversione. Quindi vi è ancora la fiducia che questa linea che ho cercato di sintetizzare nella figura dell'Alvarez e della Compagnia di Gesù era in grado di operare conversione. Beh, questa era probabilmente la fiducia del biografo dell'Alvarez, non era più la fiducia dei vertici della Compagnia di Gesù, perché provinciale nel Perù non fu l'Alvarez, ma fu appunto la Costa. Ma prima di passare a questa seconda fase, a cercare di capire come si sia operata questa svolta che già, per fare un nome illustre, il Cantimori aveva individuato nel 1570 come l'anno di svolta per la Compagnia di Gesù, il momento in cui, per così dire, imbracciava le armi e lasciava invece questa sua prima radice, vorrei ricordare così, a modo di epigrafe di questa prima parte, uno scritto di De Bonis sulla spiritualità, un gesuita alla fine del Cinquecento, che a proposito di coloro che sappiano pregare rettamente parla dell'esploratore curioso della propria integrità. Ecco, vi è proprio in qualche modo l'uso ambiguo di questa parola, colui che sappia esplorare se stesso, che abbia la volontà di sapere chi è, può anche avere la certezza, per così dire, di essere in grado di evangelizzare. Questa certezza venne meno quando, per la prima volta in un modo sistematico, la Compagnia di Gesù si trovò a dover fronteggiare dei selvaggi. Non che prima non li avesse visti, abbiamo già visto il Nobrega in Brasile, ma comunque era più interessato ai contatti tra i cristiani già arrivati e i selvaggi. Comunque lì i selvaggi sono abbastanza sullo sfondo. Nelle Indie e in Cina, naturalmente, come sappiamo, la evangelizzazione gesuita era, per così dire, verticale, partiva dai vertici, dal potere. L'esperienza della Florida non fu certamente felice. Arrivati nel 1568, vengono ammessi nel Perù perché in questo vicereame squassato dalla guerra civile si cercò di avviare una strategia di rinascita che doveva passare attraverso la rivitalizzazione un po' paradossale del vecchio sistema incaico. Bisognava ricostruire delle comunità, gli Ayllus, e lì attraverso un preciso controllo religioso si sperava in vario modo di riuscire a far rifiorire questo vicereame. Non soffermiamoci su questa storia, è interessante notare che fu chiesto alla Compagnia di Gesù di prendersi carico di queste comunità. Ed era già un primo problema, perché come ho detto le missioni erano peregrinaciones, non potevano i gesuiti assumere carichi di parrocchia. vi fu una lunga discussione, alla fine si accettò da parte della compagnia questa impostazione. È una prima importantissima torsione della definizione iniziale del lavoro missionario. Per intendere questa torsione, di cui fu protagonista appunto la Costa, nella congregazione provinciale del 1576, in cui sottolinea che due debbono essere i modi, andare a missionar, come lui dice, ed è, lo dice testualmente, il modo antico della compagnia, quello proprio dell'istituto, ed il modo invece nuovo, proprio del Sud America, quello cioè di prendersi carico delle anime nelle doctrinas. Dicevo, questa scelta probabilmente nasce proprio perché in virtù di questa maturata capacità di ascolto e di farsi intendere, di capire che cosa sia la società, i gesuiti si erano resi conto che avevano di fronte a popolazioni particolari. Vorrei riprendere appena brevemente, perché Carla Forti già ce ne ha parlato in modo appassionato ed esauriente, la disputa tra Las Casas e Sepúlveda. E vorrei un attimo prendere le mosse da Sepúlveda. Aveva sostenuto che gli indios non erano uomini secondo il parametro aristotelico e dunque potevano essere fatti servi, potevano essere combattuti, perché per l'appunto mancavano della dimensione politica. Per Sepúlveda credo che si potrebbe dire gli indios non avevano società perché non c'era l'agorà, cioè quella dimensione politica, quello spazio nel quale confrontarsi, nel quale predicare, nel quale decidere. Lì dove manca questa dimensione, manca per l'appunto la civiltà, manca addirittura l'umanità. È il primo momento, credo, in cui il pensiero occidentale comincia a porsi il problema non di cosa sia lo Stato, ma se sia possibile disgiungere società e Stato. È una storia, questa naturalmente, che va oltre i confini della mia relazione e soprattutto va oltre la Compagnia di Gesù, viene affrontata al di fuori, naturalmente, di questa tradizione. Ma certamente è il primo momento, è possibile una società senza Stato? Per i tomisti spagnoli naturalmente questo non era possibile, anzi lì dove si incontrava bisognava comportarsi come nell'antichità, con la guerra, ed infatti guerra chiese l'acuto commentatore di Aristotele che era Sepúlveda. E pur tuttavia Sepúlveda, espressione del milieu coloniale, interessato a sostenere la pratica dell'encomienda, si era avvicinato al mondo selvaggio per questi scopi, sia bene chiarirlo, comunque in qualche modo più di quanto non avesse fatto Las Casas stesso, che i selvaggi aveva invece paragonato e in qualche modo equiparato al mondo pagano classico. È proprio di fronte a questa impasse che si mossero subito i gesuiti ed è questa impasse che Acosta cercò di risolvere. Cercò di capire cosa fossero questi selvaggi e in una famosa tripartizione che in realtà variò, ma che comunque per comodità di discussione possiamo considerare unitariamente, cercò di descrivere quelli che fossero i popoli della storia universale. Al primo livello, coloro che conoscevano integralmente la cultura, e cioè i cinesi e gli europei. Al secondo livello, coloro che di questa cultura avevano qualche elemento, non tutti, ma che in qualche modo ancora vi rientravano, peruani e messicani. Al terzo livello, i selvaggi. Homines silvestres, feris similes, sine lege, sine rege, sine federe, sine magistrato, sine repubblica. Che vagavano, popolazioni cacciatori, e qualora avevano sedi stabili, sembravano tuguri bestiali. Di prima acchito questa descrizione sembrerebbe totalmente vicina a quella di Sepúlveda, ed in effetti largamente gli è vicina. Eppure c'è qualcosa che non si trova. Noi non troviamo la formula che ci potremmo immaginare del sine deo. Queste popolazioni sono impolitiche, certo, ma hanno una religione. Questa è una posizione originale perché già molti altri missionari e altri viaggiatori, prima e dopo di Acosta, diranno il contrario, diranno che queste popolazioni sono popolazioni atee. C'è qui, anche qui, di nuovo, una delle altre grandi discussioni che attraverserà la coscienza occidentale, è il caso di dire, il problema dell'ateismo dei popoli primitivi. In altre relazioni, penso a Lery, per dire forse quella più famosa, si dicevano tutte e due le cose a distanza di pochi capitoli. Da una parte i Tupinamba erano atei, poco dopo divenivano invece in qualche modo religiosi. Da questo punto di vista la posizione di Acosta è chiara, è quella del Nobrega. In qualche modo una religione esiste. Ma in questo modo, quello stesso parametro politico, così assoluto per Sepúlveda, viene a perdere di assolutezza, perché certamente costoro non hanno uno Stato. Ricordiamo un attimo la definizione, sine lege, rege, federe, repubblica, magistrato, sono gli elementi propri di uno Stato. e purtuttavia Acosta la conclusione la sa trarre: nullam servitutem agnoscimus, perché per l'appunto quel parametro non è più sufficiente a definire selvaggi, barbari delle popolazioni che invece hanno una conoscenza, per quanto rozza, per quanto sommaria, per quanto primitiva, per quanto prodotta dalla paura e non dalla ragione, ma hanno una conoscenza della religione. Da questo punto di vista, la strada che Acosta segna è quella che appunto seguiranno poi i missionari. Questi uomini non vanno conquistati con le armi, vanno conquistati piuttosto con la loro educazione, si possono civilizzare, vanno resi uomini. In questo modo Acosta aveva introdotto sulla linea della storia universale i popoli selvaggi, quelli che per l'appunto Sepulveda aveva cancellato, li aveva messi al di là, ancora prima del suo inizio, e che in qualche modo Las Casas aveva forse troppo glorificato, portandoli allo stesso livello del mondo pagano mediterraneo. C'è qui davvero una delle prime intuizioni, forse una delle più felici, della etnografia gesuita. Uomini dunque nuovi, uomini che non si erano mai incontrati per l'innanzi, questi selvaggi americani, che bisognava civilizzare e cui dunque bisognava portare il Vangelo in un modo nuovo, novum genus hominum, un nuovo modo di evangelizzare. Acosta, che le formule conosceva bene, dice infatti che il Vangelo va portato loro non evangelice. Ma ancora su un punto vorrei richiamare la vostra attenzione, sempre per intendere l'immenso peso di questa conoscenza, di questa descrizione che nelle opere di Acosta si ha della società india e che poi verrà discussa lungo tutto il Seicento, non solo nel mondo gesuita ma nel mondo anche laico. Penso a Hobbes, penso a Locke, penso a Hume. Queste società abbiamo detto che sono impolitiche, non hanno Stato, non hanno cultura, addirittura non hanno famiglia. Eppure v'è qui qualcosa di paradossale: sono pacifiche. Come nel mondo religioso non c'era religione ma c'era superstizione, qui abbiamo in qualche modo lo stesso paradosso: non c'è Stato ma c'è pace. Com'è possibile? Acosta capisce perfettamente che si trova davanti a un punto assai delicato della questione, in cui in qualche modo il San Tommaso, quello stesso San Tommaso che De Nobri, Obreboeuf e gli altri vedevano vacillare nelle loro predicazioni, gli vacilla davanti, forse da un altro punto di vista. E sostiene che il principio di queste società è libido pro ratione utuntur. Formula notevole, naturalmente, formula effettivamente brillante, sulla quale credo nessuno degli intellettuali, dei filosofi del Seicento non abbia a lungo meditato. Naturalmente era questa una strada che poteva portare all'idealizzazione del buon selvaggio, poteva anche portare invece alla sua negazione. Sappiamo che per la cultura cattolica il mito del buon selvaggio come tale non è mai esistito. Costoro erano uomini, sì, ma andavano aiutati a migliorare, andavano aiutati a cambiare questa propria dimensione, e questo si doveva impegnare a fare il buon gesuita, come sappiamo, al servizio di Dio e del prossimo. Quale fu allora la strategia seguita dai gesuiti nel contatto di queste popolazioni che, e questa è un'osservazione che vorrei fare, vengono presentate allora sempre in un modo che non è più neutrale? Grandi osservatori, indubbiamente, le popolazioni del mondo sudamericano da questo momento in poi verranno presentate quasi sempre così, in una dimensione, come è stato detto, riduzionistica. Riduzionistica perché? Perché è un'antropologia che consente di configurare un'umanità, quella dei selvaggi, che possa entrare a far parte delle riduzioni, su cui si possa esercitare, cioè, l'insegnamento gesuitico. Qualora costoro si avvicinino spontaneamente alle riduzioni, appunto, bisogna trattarli con dolcezza. Se invece ostacolano o frappongono un'altra volontà, non illiberaliter, dice Acosta, vanno affidati a uomini che siano melioribus, cioè gesuiti stessi, per la loro stessa salvezza. Abbiamo visto la connessione società-stato, la disgiunzione, il problema paradossale della religione. C'è qui ancora un altro elemento che viene nascendo, questo della direzione, affidare cioè delle popolazioni per il loro stesso bene, malgrado contro la loro volontà, a qualcuno che li possa far progredire lungo una linea. Vi è in qualche modo una prima configurazione in questa storia universale di una teoria, credo forse senza essere troppo anacronista, del progresso. Da questo punto di vista allora i gesuiti possono tranquillamente accettare una predicazione che non sia più quella apostolica. Acosta da questo punto di vista è esplicito: dobbiamo rinunciare al modello tradizionale della Chiesa primitiva, ci possiamo appoggiare sulle armi della conquista, possiamo cioè introdurre la paura. Questa è la passione principale che va introdotta e tolta. Introdotta perché in questo modo si costruiscono le strutture principali della individualità con cui poter costruire una nuova comunità, e poi tolta attraverso la religione. Perez de Ribas, un gesuita, ma ormai ci troviamo già alla metà del Seicento, scrive che per l'appunto i gesuiti in queste riduzioni sono ambidestri, si occupano cioè tanto del lato, per così dire, civile, quanto di quello religioso. Hanno costruito una totalità che riescono a controllare per intero. Beh sì, credo che a questo punto vorrei concludere sottolineando lo stesso punto di partenza. Abbiamo visto che Montaigne aveva dissolto l'idea di coscienza. Direi che forse Acosta è riuscito a costruire il diritto alla civilizzazione appunto facendo a meno della coscienza, e questo è un dato che peserà molto sulla conquista europea. Grazie. Girolamo Imbruglia, ci sono molte domande, penso i problemi che Imbruglia ha sollevato sono parecchi. Io vorrei approfittare della posizione di vantaggio che godo in questo momento per farne una che riguarda, diciamo, il problema è il nuovo mondo non c'è, se non tardi e a stento nell'esperienza dei gesuiti. Le testimonianze sono chiare, i gesuiti non vogliono andare tra i selvaggi, non vogliono andare nel nuovo mondo. I gesuiti hanno molto presto una categoria delle civiltà che toglie ogni interesse, e hanno delle espressioni anche molto chiare di mancanza di interesse per l'Africa, per i selvaggi, per tutti coloro che non hanno cultura. Tu hai dato delle, diciamo, hai segnato il modo in cui questa difficoltà teorica viene risolta attraverso l'appiglio dell'idea della conoscenza naturale di Dio, mi pare, però siamo di nuovo di fronte ad una, si può dire che siamo di nuovo di fronte ad una assenza del nuovo mondo dalla coscienza europea? Tu dici che io ho posto qualche problema, il problema che tu poni è il problema. Sì, è indubbiamente vero che nella struttura, nella Compagnia di Gesù, il nuovo mondo inteso come popolazioni per l'appunto selvagge, no? In quanto tale, compare tardi e compare per l'appunto con grande difficoltà. Ed è anche vero che questa dimensione spirituale, cioè questa capacità del, diciamo, l'attenersi in qualche modo alla prima spiritualità gesuitica degli esercizi, per i missionari poteva aver valore soprattutto quando si riusciva a incontrare qualcuno con cui dialogare, non qualcuno dal quale non si ottenevano risposte. Occorreva appunto, era possibile questa forma a condizione che vi fosse un dialogo. Questo è sicuramente vero. Penso però che arrivare da questo alla conclusione che la scoperta dei selvaggi, per così dire, da parte della Compagnia di Gesù, dati solamente dalla fine degli anni 70, attraverso questa esperienza effettivamente di incalcolabile importanza che ebbe una piccola comunità quale quella di Iuli, di cui si ritrova la storia sempre nelle Littere Annue, accanto a quella del Giappone, della Polonia, del Perù, poi compare sempre questo piccolo paragrafo, per l'appunto perché evidentemente i gesuiti stessi si rendevano conto della importanza enorme che aveva nella loro stessa istituzione, nella loro stessa coscienza. Beh, io credo che forse delle spie, un'attenzione particolare al mondo dei selvaggi sia anche per l'innanzi. Certamente è difficile riuscire a trovarlo tematizzato in questo modo. Sì, però da documenti, da qualche spia, l'idea che esista un mondo dei selvaggi profondamente ferino, con il quale difficilmente si possa dialogare, credo che rappresenti sempre un punto di riferimento. È vero che negli esercizi il riferimento alle Indie e anche nelle costituzioni è sempre molto sfumato, è sempre in lontananza, si parla delle Indie lontane, addirittura si riconosce ai gesuiti che vadano nelle Indie lontane una sorta di autonomia, per l'appunto perché non controllabili non solo dal potere statuale dei grandi imperi europei, ma dalla stessa compagnia. Però, per esempio, l'Alvarez ci scrive se io mi trovassi nei deserti dell'Africa. Cioè, quindi come una dimensione magari ancora naturale, più ancora che configurati come società. Ecco, forse questo, non so se riesco a spiegarmi. Per la Compagnia di Gesù, questo mondo barbarico si configura come individui. Riconoscerlo come società, questo è sicuramente qualcosa di più tardo. Questo è qualcosa che si deve ai missionari che vanno nell'America Latina e individuano nel mondo dei barbari una dimensione di società. Per l'innanzi i barbari non è che siano assenti, però probabilmente ancora non costruiscono qualcosa di definito. Non so se ho risposto alla... Sì, io volevo soltanto sottolineare questo disagio dei gesuiti quando vengono mandati nelle Indie. Non è il luogo dove desiderano andare, c'è un atteggiamento di rifiuto, o no? Non lo so, per esempio Nadal dice che due sono le ali importanti per la compagnia, la Germania naturalmente e le Indie. Quindi, come dire, orientale, sì, le Indie orientali, si capisce. Sì, certamente l'avvicinamento al mondo dei selvaggi avviene attraverso quest'altro circuito. Ho due questioni un po' difficili. Lei ha presentato la storia della Compagnia di Gesù negli Nuovi Mondi come in un modo ammirabile e brillante come processo di sviluppo interno della società. Mi chiedo però se non sono degli influssi esterni, è centrale quella frustrazione dei missionari non gesuiti alla metà del Cinquecento e le decisioni prese per la si chiamata Junta Magna del 64, credo, in direzione di una strategia missionaria più pessimista, si può dire. E mi interessa se come quel sviluppo interno si arrangiava con quelli in quegli flussi esterni. Questa era la prima questione. La seconda è più difficile perché io non so la soluzione. Penso che durante la seconda metà del Cinquecento c'era un cambiamento della strategia missionaria in senso che il augustinismo stretto, severo e corretto nel senso di in senso inverso che ho detto al momento, in un senso più ottimistico, perché Francisco Saverio, per esempio, era sicuro che tutto uomo, in senso di San Agostino, che tutto uomo che non era battezzato sicuramente era condannato. Però alla fine del secolo, nel grembo della società, come si può provare del teatro di Giappone, della Cina, c'era una posizione differente, una posizione più ottimistica, una posizione in senso erasmiano che pensa che gli salvaggi o gli pagani possono essere salvati a causa delle loro virtù naturali, eccetera, eccetera. E finora non ho trovato il punto di cambio. Questo mi interessa molto nel grembo della società. Quando e chi ha fatto questo cambio strategico centrale? Grazie. Sì, io non vorrei rispondere alla seconda domanda solamente con un nome, Baius. Potrebbe essere che la polemica intorno a queste posizioni abbia avuto effettivamente una grande importanza. ha avuto una grande importanza, magari lateralmente, è difficile individuarla così con un valore esplosivo ed epocale, per così dire. Certamente è una linea che si viene affermando, si viene corroborando e poi naturalmente diventerà molto importante nel Seicento. Nell'ambito di queste discussioni probabilmente credo che questa polemica possa avere una rilevanza, cioè l'idea di, appunto come lei diceva, di ritrovare già nella dimensione naturale degli spunti che non consentano questa definizione così spaventosa e assoluta, augustiniano, anche paolina naturalmente, della perdizione di chiunque non abbia ascoltato la parola del Vangelo. Sarebbe anche forse interessante riuscire a seguire questi dibattiti per come arrivarono a Roma dal mondo missionario. Cioè, è vero che Francesco Saverio aveva questo spunto, poi lentamente nello stesso mondo missionario qualcosa cambiò. Penso per esempio a quella grande fiammata che si ebbe nel Perù. Protagonista è vero un domenicano, ma non vi fu estraneo un gesuita, un certo Lopez, su cui i documenti sono pochissimi. Vi è una ricostruzione di Battaglione che probabilmente è quello che riesce a mettere insieme il maggior numero di documenti possibili. E questo e Lopez appunto mostra una confusione, possiamo dire, ma certamente una cultura in cui il mondo naturale viene rivalutato potentemente. E in questo senso può essere che siano degli spunti che agiscono. Da un punto di vista teologico, ripeto, credo che quello potrebbe essere un punto effettivamente di svolta in cui si cominciano a ridiscutere delle questioni. Il pessimismo. È vero che c'è questa componente pessimista, per così dire, però è un pessimismo probabilmente da mettere sullo sfondo, come diceva, con altri influssi, per esempio con quello che contemporaneamente facevano i francescani. Lì effettivamente abbiamo questa posizione di autentico pessimismo, d'altronde l'aveva già uno dei primi apostoli francescani, Martino di Valencia, quando arriva nel Messico, inizialmente a grande entusiasmo, poi però confessa che non può far altro che frustare gli indios per portarli alla messa, e quindi ormai il mondo indios è considerato appunto qualcosa di impossibile, e questa è la posizione di sempre del mondo francescano. Credo che anche se i gesuiti assunsero una posizione, per così dire, non lascasiana, ecco, mettiamola in questi termini, quindi in questo senso non ottimista certamente, però non arrivarono mai a questa individuazione. Vi fu sempre questo atteggiamento di immaginare la possibilità di richiamare. Quindi questa coloritura pessimista si ebbe, ma se confrontata con le strategie missionarie, ad esempio di quelle dei francescani, assume sempre in qualche modo una posizione particolare. La posizione della corona era complessa perché naturalmente c'era questa questione dell'encomienda, naturalmente, per cui bisognava soprattutto controllare il mondo degli encomenderos. Vero è che mentre i francescani si integrarono, pur costruendo riduzioni, si integrarono ammirevolmente nella struttura degli encomenderos, il mondo gesuita si tenne relativamente sempre distinto, perlomeno nei casi che qui stiamo considerando, da questo mondo degli encomenderos. De Procuranda le combatte energicamente queste posizioni, c'è tutta questa serie di capitoli contro quelli, e senza fare il nome, polemizza contro i domenicani che pensano che ci si possa salvare per lume naturale, eccetera eccetera. Sì, sì, certo. Cioè, senza nominarlo, sì. Si riferisce a Francesco, sì, della Cruz, ma vabbè, quello era un eretico, era anche un po' un matto, come dice Battaglione, ma anche posizioni molto più, come dire, molto meno estreme, molto più come quella di Andrés de Vega, chiaramente Acosta contro di loro polemizza, senza far nomi, ma... No, certo, però perché questa componente è una componente che lui aveva già individuato come lettori dell'Apocalisse, cioè da questo punto di vista questa dimensione... Cioè, da questo punto di vista ci troviamo con quest'altra anima della Compagnia di Gesù, in cui lo sforzo escatologico ormai è venuto meno e vi è invece questo ideale di governo. Da questo punto di vista è chiarissimo, lui dice che aveva avuto probabilmente, aveva condiviso forse queste idee, ora non le condivide più, però per l'appunto avevano girato. Beh, questo non lo so, certamente testimonia che negli ambienti dei conquistadores si leggeva l'Apocalisse, si avevano queste letture. Acosta è stato anche l'editore di Ribera, cioè è una persona complessa che nella sua giovinezza abbia avuto delle simpatie, non voglio dire eretiche, ma certamente legate a un'anima della compagnia che poi lui stesso ha contribuito ad emarginare. Questo a me non sembra implausibile, certamente è uno stesso testo ambiguo, quindi si può leggere in un modo o nell'altro. È vero che comunque questa dimensione di una positività del mondo naturale lì era affiorata in ambiente escatologico, e però sarebbe anche interessante vedere un'azione o una reazione. È vero che veniva un rinnovamento o una dimensione teologica, però è anche vero che queste esperienze venivano riprese negli ambienti romani. Allora vedere questo andare e venire di queste teorie può essere interessante. Certamente comunque è vero, Acosta li combatte perché però avevano una dimensione escatologica, è chiarissimo il punto di riferimento. Meine Frage ging in die erste Frage, in die Richtung auch der ersten Frage von Herrn Reinhardt, auch die Frage, ob nicht nur, ob außer der Sensibilität der Jesuiten eben auch die Rahmenbedingungen, die auch durch die spanische Krone und durch die spanische Art der Gesetzgebung eben gegeben war, den Jesuiten die Möglichkeit gaben, in ihrer Art zu missionieren. Denn Sie haben einmal das Problem auch der Sprache angesprochen, wenn ich das richtig verstanden habe. Auch bei der spanischen Krone waren ja schon sehr frühzeitig Überlegungen darüber angestellt worden, ob denn das Erlernen der spanischen Sprache notwendig sei oder ob es nicht umgekehrt der Weg auch sei, über die indianische Sprache, über das Erlernen der indianischen Sprache, dann vielmehr die Möglichkeit zu haben, zu missionieren. Das hängt auch mit der Struktur der Encomienda zusammen, die sich dann ändert. Auch das war also nochmal die Frage nach der Gesetzgebung und auch nach den Intentionen, die schon sehr frühzeitig aus den Berichten der Verwaltungsbeamten die spanische Krone bzw. der Indienrat vornahmen, im Sinne einer anderen Form zu missionieren, zu evangelisieren und damit auch zu christianisieren. Und dass sich dieses sehr gut fügte, dass diese frühen Ansätze auch aus der internen Entwicklung der Jesuiten mit der von spanischer Gesetzgebung schon vorgegebenen Richtung konvenierte. Und das andere ist sicherlich auch eine sehr schwierige Frage, ist das, was dann auch die Jesuiten taten, auch in der Form, wie es Acosta vorgeschlagen hat, nämlich zu evangelisieren, zu christianisieren, war das dann nicht auch europäisieren? Und damit sind wir nun bei einem sehr schwerwiegenden Problem für die weitere Entwicklung. Per essere proprio sicuro di aver capito le questioni, le posso chiedere di riesporle brevissimamente, perché io ho segnato lo sviluppo, però per essere proprio sicuro di... Sì. Sì, patronato. Sì, sì, noi per essere sicuro di... Sul linguaggio. No, probabilmente la risposta è congiunta. L'ultimo problema, questo dell'europeizzazione, lo affrontiamo effettivamente. È verissimo che la Compagnia di Gesù ebbe problemi per l'accesso e i rapporti con gli stati. D'altra parte è anche vero che, per esempio, non era concesso indiscriminatamente l'accesso ai missionari, e alle volte c'erano dei veti incrociati, per cui per esempio missionari portoghesi o missionari spagnoli non potevano entrare reciprocamente nei due imperi. Ancora, per fare forse l'esempio più famoso, i gesuiti che arrivarono nel Portogallo un po' per disperazione, un po' per la tensione che avevano a prendere nuove terre, chiesero di andare verso il Paraguay, e sappiamo che Ignazio di Loyola diede risposta negativa, precisamente perché, si intende dalle sue parole, non erano ben chiari i confini tra i due imperi. Quindi questa attenzione a trovare zone in qualche modo marginali per riuscire a guadagnare una qualche autonomia, questo credo che senz'altro vi fu. Ed anche naturalmente il problema delle lingue. Il problema delle lingue è verissimo, sappiamo soprattutto poi dalla fine del Cinquecento in poi, anche una delle accuse che il mondo vescovile, il mondo poi dei giansenisti, il mondo degli encomenderos faceva a questi enclave, vero, gesuitiche, era che lì gli spagnoli non trovavano modo di intendere, perché i gesuiti avevano imparato il guaraní, ma i guaraní non avevano imparato lo spagnolo, per cui era una sorta di aggiramento della questione. Infine l'europeizzazione, certo, questo è effettivamente il problema assolutamente centrale, e certamente è il dato che sicuramente si può dire, cioè la civilizzazione dei gesuiti non è stata una europeizzazione, se anche si va a guardare come hanno costruito non solo naturalmente i ritmi delle società, ma anche concretamente i modi di intesa, è stata questa. Credo che un punto forse potrebbe essere interessante, quello di non considerarlo immediatamente, cioè sicuramente vi fu questa linea, no? Questa incertezza, questo modo di avvicinarsi che forse non fu immediatamente volto a, diciamo così, già predeterminato in questa direzione. Quindi quello che credo si potrebbe fare, volendo ricostruire cronologicamente questa evoluzione del missionario e dell'incontro nella propria coscienza con i nuovi mondi, è quello di seguire questo slittamento di due nozioni, cultura e civilizzazione. La civilizzazione è certamente un'europeizzazione. Lo sforzo di cultura, lì si vede un'attenzione al mondo diverso, al mondo, diciamo, della diversità, che mi sembra molto significativa. Difficile fare domande perché ci hai presentato un panorama di tale ampiezza e soprattutto un problema di tale complessità che così, credo che sarebbe necessario quasi dedicare al problema dei gesuiti e del nuovo mondo una seduta tutta particolare. In qualche modo mi sembrava di aver capito, ma vorrei da te una conferma, che quando tu contrapponevi all'atteggiamento di Montaigne questo di Acosta, presentassi qualche cosa come, non so bene se definirla, restaurazione rivoluzionaria o rivoluzione restauratrice della coscienza europea. In altri termini, noi siamo piuttosto abituati a pensare che le osservazioni di Montaigne vadano in una linea a quello che è il nostro modo di pensare oggi, cioè come comprensione della necessità di conservare, di rispettare, di vedere che cos'è l'altro. Qui mi sembra invece che evidentemente ci sia un atteggiamento diverso, in questo senso parlavo appunto di... ti chiedevo se era giusta la mia interpretazione delle tue parole. Però agli inizi, almeno quel missionario francese che va in Canada e che scrive appunto che l'Urone il vostro, deve essere il vostro San Tommaso, c'è un atteggiamento abbastanza vicino invece. Allora quello che volevo sapere è il cambiamento della compagnia è appunto in questo senso un cambiamento di politica generale che restaura un certo tipo di valori, anche di senso di necessità di incivilimento, che vuol dire però conquista. Noi sappiamo che uno dei punti polemici di forza del non soltanto della predicazione dell'evangelizzazione del gesuita, ma che arriva veramente ai vertici della Chiesa, è quello di dire luterani, riformati, hanno portato via qualche piccola provincia in un piccolo continente come l'Europa, noi stiamo conquistando alla Chiesa nuovi mondi, la Cina, il Giappone, eccetera. Quindi c'è questo senso di dover in qualche modo compensare di conquistare. In qualche modo, nel momento in cui si scopre che appunto la predicazione degli apostoli non è arrivata, come diceva San Paolo, in tutto il mondo, quel versicolo che diceva Guicciardini ieri, che citavo io di Guicciardini ieri, c'è questo entusiasmo missionario, ma c'è anche questo senso invece necessità di compensazione. Ecco, quello che tu dicevi, questa è un'altra domanda, quando tu parlavi da una parte del tentativo di ricostruire il sistema incaico in un certo momento e poi anche però la svolta e quindi l'atteggiamento di Acosta in questo senso è in qualche modo un tentativo di costruire dei regni, cioè in Oriente avevano trovato i regni e quindi potevano conquistare dalle gerarchie, come tu dicevi, ricordavi in principio. Qui non è possibile perché appunto è una società, si ne legge, eccetera. Qua c'è un tentativo di costruire dei regni in modo da poter conquistare meglio l'evangelizzazione e questo anche mostra in qualche modo una struttura mentale particolare. Se non c'è questo modo, non soltanto è una necessità per la conquista, ma è una necessità anche per l'evangelizzazione. Sì, sì, no, su Montaigne è esattamente quello che tu hai detto. Io penso che la figura appunto di Montaigne sia certamente vicino a queste al Brebeuf. Lì è chiaro che abbiamo questo sentimento di una estrema diversità. Probabilmente e c'è questo atteggiamento così acuto, no, di riuscire a perdere la propria individualità. Io avevo citato questo testo degli Avvisi della Natura che mi sembra bello, che dice per proporre la legge di natura. Ma Montaigne avrebbe proposto la legge di natura? Beh, la legge di natura che qui emerge è proprio questa dimensione, è il Vangelo in sostanza. È la possibilità di imporre questa legge ritrovato nella sua universalità. Non so se ho capito bene la questione. Credo che il problema anche... Ah no, sì, certo, questo d'accordo, nel mondo... sì, quello che voglio dire è che la legge di natura che qui ci troviamo, di cui qui parlano in questi avvisi e comunque di cui parlano questi gesuiti è quello che essi intendono fare. Poi quando si troveranno di fronte al mondo cinese le cose saranno molto dissimili, però è utile anche mettere in confronto l'atteggiamento, cioè è vero che sappiamo che il mondo cinese ebbe diffidenza e rifiutò Zhenren Idam questo atteggiamento, è anche vero che i gesuiti cercarono di allargare al massimo questa stessa legge di natura in modo da riuscire a assimilare quegli usi puramente convenzionali, puramente statuali e perciò stesso sottrar loro quella carica di alternativa, di contrapposizione che avrebbero avuto alla linea rigorosamente cristiana. Però direi che da questo punto di vista non c'è non si ode un'attenzione da parte del mondo, chiamiamolo occidentale, una risposta, ecco, al mondo del mondo occidentale alla proposta gesuita della legge di natura. Quello che io lì avevo messo in luce era solamente, diciamo, un movimento interno alla compagnia. E questo è in fondo la sua ambiguità, per cui abbiamo dei momenti in cui è molto vicina con questi anni, negli anni 60, o con l'esperienza effettivamente drammatica e affascinante dei gesuiti che vanno nel Canada, è un capitolo effettivamente drammatico, molto vicino a questo senso e al rispetto della diversità. In questo senso avevi, mi sembra, colto molto felicemente questo aspetto quasi montegnano, no, della cultura. Però dall'altra parte c'è sempre quest'altra dimensione che poi ha il sopravvento al momento appunto della formazione, poniamo, di uno Stato. E questo è senz'altro molto importante, cioè questa dimensione verticale, il fatto che emerga questa anima civilizzatrice di governo, no, da parte della compagnia, esattamente quando si cerca di ricostruire uno Stato, quasi che la compagnia di Gesù abbia bisogno comunque di fingerlo uno Stato, come se, no, per usare una formula gradita ai gesuiti, come se ci fosse, e quindi lentamente costruirlo. Questo è certamente un elemento molto importante, nemmeno loro riescono a fronteggiare, ben inteso, una società senza Stato, questo è indubbiamente vero. Ci si sono avvicinati in alcuni momenti. Io vorrei riallacciarmi a un intervento del professor Reiner, della discussione che ne è poi nata sulla valutazione della natura dell'indio in Acosta, in generale nelle missioni gesuitiche, sulle diversità di atteggiamento tra gesuiti e francescani. Ora abbiamo visto che i gesuiti hanno una posizione già relativamente più favorevole alle potenzialità della natura umana, anche per quel che riguarda la possibilità di salvezza dei pagani. Mi sembra che si dovrebbe distinguere qui fra la natura dell'adulto e la natura del bambino, perché nel Cinquecento ci troviamo di fronte a una teoria pedagogica che pone molto l'accento sul bambino, è qualcosa di assolutamente indeterminato, è una massa informe che si può sviluppare in qualsiasi maniera, quello che conta è l'educazione, in realtà quello che la natura dà è un nulla, è un quid indeterminato che l'educatore forma nella direzione che vuole. Siccome il professor Reinhard citava Erasmo, Erasmo ha detto «Santo Socrate prega per noi», però ha detto anche «gli uomini non nascono ma vengono formati», e che anche se riferendosi a Plinio ha citato l'esempio dell'orsacchiotto che viene formato dalla madre con la lingua, e con iperbole retorica ha ancora detto che nessun orsacchiotto nasce così informe come nasce del tutto informe e indeterminato l'uomo. Allora mi chiedevo, questa scommessa gesuitica della possibilità di civilizzare il selvaggio, di sviluppare delle potenzialità che ci sono nella natura del selvaggio, perché il selvaggio è come un bambino, non è ancora determinato né in bene né in male, ma può degenerare nel vizio se nessun educatore interviene, se invece l'educatore se ne prende cura e lo forma, può diventare uomo, se c'è un rapporto fra l'esigenza di civilizzare e la teoria pedagogica che è tipica del Cinquecento, che ci dice che il bambino non è nulla di per sé, ma viene formato dall'educatore. Allora la domanda sarebbe questa: che ruolo ha il bambino indio nelle teorie gesuitiche dell'attività missionaria, anche nelle teorie gesuitiche dell'educazione, come vengono trasferite alla situazione del Nuovo Mondo, dove ci sono dei collegi per i figli dei nobili locali, ed è proprio in questi collegi che si cerca di europeizzare. E il tema, e l'altra domanda sarebbe se è proprio qui che nasce l'ipotesi di civilizzare, di far diventare uomo il selvaggio, ma nasce anche la raffigurazione del selvaggio come infanzia dell'umanità, che mi sembrerebbe un tema nuovo e strettamente legato alle trasformazioni dell'antropologia cinquecentesca. E questo è anche il secolo in cui nasce il concetto e il termine di antropologia, si comincia ad usare nel primo Cinquecento in Galeazzo Capella, poi in Kassmann, e anche una formazione terminologica cinquecentesca. Allora sarebbe la domanda: il ruolo del bambino nella teoria missionaria gesuitica e il ruolo della rappresentazione del bambino nell'immagine del selvaggio da civilizzare a partire da Costa. Sì, è una giustissima domanda. Brevissimamente, il bambino ha avuto una enorme importanza nella pratica civilizzatrice e anche evangelizzatrice della compagnia. In un certo senso lo ripetevano continuamente, era il loro canale privilegiato, per così dire, di accesso. Addirittura sappiamo da una serie di descrizioni che facevano in modo che fossero i bambini, raccontano, a condurre al catechismo i loro stessi genitori. E questo un po' dovunque, direi anche nel mondo italiano, nel mondo delle campagne, questa attenzione al mondo infantile come più plasmeabile è sicuramente giusto, è sicuramente vero. E quindi su questo sono totalmente d'accordo. Per il secondo corno della questione forse lo sfumerei un attimo, nel senso che è verissima che c'è questa visione pessimista dell'uomo di natura. Un gesuita, il Vimont, un gesuita francese che andò in Canada, usa una formula che a noi chiamerebbe in mente un altro uomo, un altro filosofo: homo homini lupus. Ora, è chiaro che noi pensiamo subito a Hobbes, eppure questa formula viene sotto la penna a questo gesuita, proprio perché per lui, lì dove esiste solamente il demonio, l'uomo non può che avere paura. Se intendiamo che cosa fosse allora nel migliore dei casi l'indios o comunque il selvaggio, direi che per il mondo gesuita si tratta di condurlo a essere un bambino. Ecco, permane questa visione del selvaggio, almeno quello amerindio che io conosco un pochino nelle loro descrizioni, come qualcuno che va civilizzato, che va fatto crescere, ha questo atteggiamento appunto paterno in qualche modo di educazione, ma l'idea che esista un'idealizzazione dell'indios che possa andare oltre questa dimensione, direi che non ci sia. Sicuramente questa attenzione è molto forte al mondo dell'infanzia come il tramite con il quale entrare in contatto con il mondo selvaggio. Avrei più dubbi a parlare, a proposito della compagnia di Gesù, del mondo indio come l'infanzia della storia. Questa è certamente un'immagine di Montaigne, un'immagine che circola alle origini dell'antropologia. Per quello che io penso, o mi è capitato di leggere, direi che è difficile considerare questa una sorta di perno dell'antropologia e della filosofia della storia gesuita, quantomeno una formulazione che andrebbe molto molto sfumata. C'è anche naturalmente sempre il concetto della natura dell'uomo, dell'anima naturalità cristiana, cioè, anche nella antropologia della compagnia, e che conduce, non per caso lei ha nominato Paio, Giansegno, eccetera, che porta a una certa convergenza, anche nonostante poi la terribile lotta fra giansenisti e gesuiti, che in questo punto hanno lo stesso atteggiamento agostiniano, paolino. Questa è una delle interessantissime contraddizioni che provengono sempre. C'è poi la stessa cosa per quello che riguarda la religione e la superstizione. Per il giansenista o giansenistizzante, naturalmente la religiosità popolare italiana, prendiamo per esempio Ferdinando IV di Napoli, per Giuseppe II è un ateo, perché non ha capito, non gli hanno mai detto che mentire, assassinare, eccetera, è una cosa, è tutto quello che lui sa, e che i diavoli sono bianchi, sono neri, e gli angeli sono bianchi, e San Gennaro è un gran santo. Invece per Ferdinando il suo suo cognato Giuseppe è anche è un miscredente, perché non crede in San Gennaro e considera questo. Allora c'è questo, questo strano, questa strana coincidenza e contraddizione. Se vediamo adesso, ci sono i lefebriani che dicono che l'attuale Papa è un eretico perché ha fatto in India, in Cina abbia fatto il Reiskopf, l'offerta del riso, contro il quale i santi martiri si sono opposti, hanno sofferto, e lui invece si è fatto baciare da una nuda buddista in India, e allora lui sarà condannato, mentre San Lefebvre lo guarderò dal cielo mentre lui brucia nell'inferno. Adesso è estremamente questo atteggiamento, cioè questa contraddizione interna. Sì, io se posso le vorrei rispondere anche io con un elemento di attualità, e cioè lei ha giustamente segnalato le possibilità di incontro, di avvicinamento tra il mondo giansenista e quello gesuita. Forse nel 500, nel 600 era più difficile, ma appunto lei richiamava molto giustamente il mondo attuale. Io penso a quei missionari salvadoregni, gesuiti, che furono qualche anno fa trucidati. Ebbene, se si guarda in un certo senso che cosa questi missionari in particolare facevano, beh, certamente non si rivede in loro l'atteggiamento di una costa o di un civilizzatore, si rivede piuttosto l'atteggiamento di quest'altra anima, che forse non possiamo definire gesuita, ma certamente, come dire, nel corso della storia le metamorfosi di una stessa dottrina, di una stessa credenza sono state tali per cui ci sono stati degli avvicinamenti, sicché nel leggere le avventure di questi gesuiti se viene in mente più forse alcuni scritti dei giansenisti del Seicento che dei gesuiti trionfanti nel Paraguay. Da questo punto di vista, che queste metamorfosi si intreccino e creino singolari avvicinamenti, sono d'accordissimo, assolutamente. Veramente io avrei voluto chiederti alcune cose a cui già hai buona parte risposto sul comparazione fra atteggiamento dei gesuiti e quello di altri. Mi pare che hai delineato bene questa sorta di via media, insomma, fra il pessimismo dei francescani e l'atteggiamento domenicano. Allora adesso vorrei domandare, una piccola subdomanda, i domenicani hanno proprio sposato nella loro pratica, nella loro presenza abituale, le tesi di Las Casas, oppure no, non lo so se puoi rispondere, o insomma la loro Las Casas rimane in certo senso una punta. Ma l'altra cosa, anche qui non so se hai tutti gli elementi per rispondere, insomma, l'altra cosa che vorrei cercare di sapere è se questa via dei gesuiti rimane un modello limitato che applicano solo loro, e se il modello in qualche modo prevalente invece è quello francescano piuttosto, eccetera, se si può parlare di una prevalenza, o se lungo una lunga epoca rimangono più modelli e non si può parlare di un modello egemonico, insomma, ecco, varietà, disuniformità e uniformità che ci sono nella cristianizzazione dell'America Latina. Alla prima domanda devo dire che quello che so mi spinge a dire non saprei dare una risposta. Effettivamente, come dire, sì, credo che sia meglio di non lo so. Penso che ci siano state delle oscillazioni, ma devo dire che non ti saprei dare una risposta precisa. A questa seconda domanda bisogna naturalmente distinguere, nel senso che le strategie poi messe in campo dalla Compagnia di Gesù furono sempre anch'esse diverse, cioè non solo c'è una diversità tra la Compagnia di Gesù e gli altri ordini che si impegnarono nell'evangelizzazione, ma c'è anche una diversità interna alla Compagnia. Allora, se prendiamo solamente il modello, chiamiamolo così, peruviano-paraguayano per intenderci, beh, questo credo che rimanga qualcosa di assolutamente specifico per la Compagnia di Gesù. Basterebbe guardare come sono andati verso il nord i francescani e appunto i gesuiti, perché troviamo cose, diciamo, dei francescani e dei gesuiti ancora fino verso il Messico e poi ancora in California. E lì si assiste grosso modo sempre a questa diversità, cioè dalla parte della compagnia c'è sempre una grande attenzione a trovare elementi di autonomia, di autosufficienza anche economica, mentre invece il mondo francescano tende sempre a integrarsi il più possibile con il più possibile, insomma, a integrarsi con il mondo invece statale. Quindi da questo punto di vista permane questa differenza. E che una differenza permanga, poi ne abbiamo una testimonianza con Humboldt, quando lui ci racconta cosa è successo nelle missioni una volta che la Compagnia di Gesù è stata costretta ad abbandonarla con la dissoluzione dagli anni 70 in poi. Lì ci vanno dei missionari francescani, ci vanno degli altri missionari, e lo stesso Humboldt nota, in qualche modo meravigliato, questo improvviso crollo. È come se questa forza delle missioni gesuite in qualche modo abbia perduto di radice. Ora è chiaro che si potrebbe anche fare il discorso inverso, cioè la pochezza dell'azione gesuita ha consentito questa fine immediata, no? Questo crollo delle riduzioni. Gli è che comunque Humboldt si pone lui stesso questo problema, che quindi ci fosse una reale differenza, viene testimoniato dallo stesso geografo. Una domanda piccolina, solo un dei fatti. Di che origine sono i gesuiti che vanno nel mondo nuovo? Sono solamente di origine spagnola o anche della monarchia di Spagna, di Fiandra, e Napoli e Milano, eccetera? Sono di tutta Europa. Di tutta Europa? Sì. C'è una certa disparità della possibilità della presenza. Come dicevo, era difficile per un portoghese entrare in Spagna. L'ultimo spagnolo ammesso nel Portogallo è del 1583, per fare un esempio rilevante, però vengono un po' da tutta Europa. Ci sono anche non moltissimi, ma parecchi italiani. Soprattutto questo a partire dalla fine del Cinquecento, ma questo sempre perché c'è questo squilibrio di... Sì, anch'io una domandina. Nella tripartizione di Acosta, che posizione hanno i neri? E in genere l'Africa, come è vista da questi gesuiti che hai visto tu? India orientale, India occidentale e l'Africa? Sì. Scusa, sulle fonti, a me interessa moltissimo una questione che riguarda in genere tutte queste popolazioni, ed è cioè sapere se vengono inviate in Europa, per esempio, idoli, oggetti che oggi metteremo in un museo etnografico, perché sì, si può parlare di antropologia, di etnografia, però bisogna... Una delle testimonianze sicure non è tanto l'apparire della parola antropologia in due testi di anatomia in realtà, quanto vedere se si inviano oggetti non verbali, no? Quelle che io chiamo fonti non verbali, oppure se si fanno disegni. Allora volevo sapere se per caso i gesuiti del periodo tuo hanno mai inviato, per esempio, anche o disegni di popolazione, disegni e schizzi o cose di questo? Sì, per la prima domanda stanno a livello più basso, decisamente, i neri d'Africa. Su questo non v'è dubbio, fanno parte nella tripartizione del livello più basso e anche all'interno di una teoria dell'uomo, se si può dubitare che ci sia stata una teoria della schiavitù per il mondo amerindio, sicuramente c'è una teoria della schiavitù invece per il mondo nero. Quindi da questo punto di vista... Sì, c'è un gesuita al Sandoval, ecco, Sandoval, che ha naturalmente una teoria della schiavitù che potremmo definire dolorosa, nel senso di dire spiace. Non è che è trionfante come per Sepulveda, diciamo, però è indubbiamente, c'è una differenza, diciamo, d'altronde è una differenza caratterizzante. È caratterizzante ed ha avuto anche molta importanza nello sfruttamento. No, io dicevo che era un'antropologia progressista, non nel senso dell'espressione democratica, nel senso alla quale non pensavo, nel senso che è una antropologia che configura una filosofia della storia entro la quale vengono messi questi popoli, mentre invece questi popoli per l'innanzi ne erano esclusi. L'idea che poi alcuni di questi amerindi possano salire di livello e possano diventare per esempio sacerdoti, se ne è discusso moltissimo. Se ne è discusso. Il nero no, nel Cinquecento no. Ecco, devo dire che per quello che riguarda la seconda tua osservazione, non ti saprei dire se dei gesuiti hanno mandato reperti, però hanno fatto una cosa che è molto interessante da questo punto di vista, cioè l'individuazione dell'idolatria. L'individuazione dell'idolatria è un capitolo molto interessante, c'è cioè un testo di un gesuita Arriaga del 1623, ma già per l'innanzi comunque se ne discute, cioè capiscono che molti dei loro insegnamenti, della loro cristianizzazione, venivano canalizzati per ritornare alla religiosità precedente e quindi divenivano, si appigliavano, l'immagine della Madonna o di altro serviva a rivitalizzare culti precedenti. Su questa strada si rendono conto che esistono ancora forme, massi, pietre, disegni che per quanto in modo nascosto attivano questa cultura. E da questo punto di vista ci sono delle indagini esplicitamente dedicate all'estirpazione dell'idolatria, che consiste tanto nell'individuare quali forme del culto moderno vengano regredite, per così dire, al culto precedente, così come quali siano ancora i resti del culto precedente che vengono mantenuti in attività. Da questo punto di vista credo che l'occhio del gesuita sia un occhio, come tu diresti, quasi etnografico. Certamente comunque sono d'accordo con te. Perlomeno io non saprei dare questa risposta, ma devo dire che non, come dire, una domanda che non mi ero mai posto, quindi magari forse tu hai trovato questo... I primi musei riguardano il mondo orientale, Kircher, direi, più che il mondo dei selvaggi. Questo sì. Sì. Forse per il mondo peruano, ecco, la meraviglia di certi manufatti d'oro, questo c'era, ci sono queste descrizioni, però forse su un livello estetico, diciamo, da questo punto di vista direi di no. Un piccolo commento sulla prima questione, mi ricordo di un passaggio dello stesso Acosta dove dice l'indio e il negro è una bestia, ma Dio ama anche le bestie e per queste cause sono salvati, e elabora su questo punto in alcune pagine. Io volevo tornare un momentino su questa cosa del come si pongono, della ricezione del nuovo, anche prendendo spunto da questa specie di bisticcio che ha fatto il professore Vivanti quando ha chiesto se si tratta di una rivoluzione restauratrice o di una restaurazione rivoluzionaria. Vabbè, comunque sia... così a me sembrerebbe che di questo si trattasse. Prima però credo di poter forse dire qualcosa sulla domanda del professor Allegretti, e una connessione c'è. Io, per quello che ne so, credo che la Casas sia una punta e che la sua posizione non cada, e certamente oltretutto il processo a questo domenicano che Francisco della Cruz, a cui si riferiva prima in Bruglia, ha dato anche una botta all'ascasismo che già stava tramontando ed era visto ormai, le opere di Las Casas erano requisite come eretiche dal 71 in là, da quando comincia il viceregno di Francisco de Toledo in Perù, e quindi oltretutto è buffo, ma appunto era giusto quello che in Bruglia diceva: Las Casas, che è l'uomo che ha più difeso gli indios, in fondo è giusto, non è di quelli che li abbiano fatti capire di più, proprio la sua sono uomini come noi, l'evangelizzazione deve essere fatta secondo il modello evangelico, eccetera, è uno molto più preoccupato, paradossalmente, di difenderli che di conoscerli e di farli conoscere. Questo mi pare che anche Todorov l'ha detto, e l'ha detto giustamente. E del resto l'interesse, come dire, etnografico e antropologico elevato di Diego Durán, che è uno molto speciale, dei domenicani non è grande. Si sa che appunto invece quelli che ce li hanno fatti, che hanno salvato un po' di più la conoscenza di questo mondo diverso, sono i francescani, Sava Gumbri e i gesuiti e Acosta. E ecco, io però Acosta perché come giustamente ha detto Imbruglia, l'evangelizzazione deve essere un altro mondo, un altro modo di evangelizzazione, e quindi bisogna capirli e quindi capire la lingua, insomma, questo tipico entrismo gesuitico che se funziona in un certo modo a tutt'altro livello in Oriente, però funziona anche nelle Indie in questo modo. Allora poi e quindi c'è questo grande interesse per la conoscenza del mondo indio, e quindi e poi siccome Acosta è un uomo di grande intelligenza, è un etnografo addirittura per certi aspetti, insomma un etnologo grande. Ecco, però poi il modo strumento conosce per poi imporre un certo tipo di ordine civile, la distinzione che lui ha fatto giustamente fra cultura e poi civilizzazione, e poi per farli cristiani. Ma anche se anche se l'approccio è antropologico e strumentale, poi uno, come dire, l'oggetto d'indagine poi diventa per un uomo intelligente e interessante di per sé, e dunque Acosta a questo nuova gente che sono gli indios ha contribuito potentemente a farli farli capire. Però poi che cos'è che sembra a me in realtà, non si va avanti anche non solo perché l'interesse suo è per questo nuovo strumentale immediato, ma anche poi perché io credo, aiutatemi se sbaglio, io più che altro chiedo conferme, ma è la Chiesa che non vuole. Voglio dire, anche nel caso di Sahagún, certo c'è il divieto di Filippo II, ma sono prima di tutto i superiori gerarchici che gli bloccano il lavoro. E quanto a Acosta, per quel che so io, Acosta ha tutti questi capitoli bellissimi in cui, in modo proprio etnografico, senza pronunciarsi, lui registra, ed è curioso, tutti questi riti degli indios, ecco, questa specie di comunione, di confessione. La confessione sì, la chiama tale, e dice che hanno questa abitudine per cui il sacramento, nella parte sui sacramenti, il sacramento della confessione si è facilitato, il sacerdote sarà facilitato perché loro già ce l'hanno l'abitudine. Poi invece, senza dir niente, descrive questa specie di comunione. Questi fanno queste focacce dei loro dei, poi col sangue, e poi se le mangiano ritualmente, eccetera. Lui non... Voglio dire che tutte queste bellissime cose, poi già nella traduzione che in Spagna viene pubblicata, e non ha problema, dov'è? È che quando Galucci traduce la storia naturale morale in Italia nel 96, tutti questi capitoli qui su questi riti vengono soppressi. Fra l'altro si bade con grande dispetto del traduttore, il quale dice purtroppo non è completo, ma si deve sempre ubbidire ai superiori anche quando non ci piace. Poi cosa succede? Allora poi Botero, pochi anni lo stesso anno, quindi Botero ha letto un anno dopo, non lo so, quindi lui l'ha letta la storia naturale morale in spagnolo. Allora lui invece se la rimette tutta questa roba, senza dire che l'ha presa da Acosta, anzi dice che non l'ha letto lì, poi contraddicendosi perché ma insomma, e le riracconta tutte quante, ma dando tutti questi titoli, in che modo il demonio ha ingannato questi, facendo queste specie di imitazioni dei riti cristiani presso di loro. Voglio dire, e poi però anche questo testo di Botero per quel che io non so, ne so, poi viene levato di torno perché è l'unica edizione autorizzata, è poi quella del 1622, cioè la conoscenza di tutti questi aspetti del diverso viene proprio ufficialmente bloccata, ecco. D'altra parte che poi l'interesse per i nuovi sia strumentale, no? Anche l'antropologia, voglio dire, è nata dove? Nei paesi conquistatori, e certo non per... così poteva nascere lì, e voglio dire, e però non è nata, è stata bloccata perché io credo fondamentalmente dalla Chiesa, ma non so, chiedo conferma. Sì, certamente ci dovette essere, io sono largamente d'accordo con te, sì, nel senso di trovare delle censure, delle limitazioni, certamente sì, questo sicuramente dalla Chiesa non c'è dubbio. Tu hai fatto vedere molto bene queste varie torsioni dei termini in Acosta, eccetera, e probabilmente c'è anche una forma di autocensura che è anche interessante a sottolineare. Faccio giusto questo piccolissimo esempio, poi veramente non voglio trattenervi oltre. Il termine Betrias, che viene utilizzato in vari modi. A un certo punto Acosta si rende conto che questa sua tripartizione era forse eccessivamente pericolosa all'interno dello schema tomista, e lui stesso la rivede e la aggiusta. Ora, indotta da qualcuno o un suo ripensamento, è sempre difficile, probabilmente è vero che c'è questa grande ombra che tende a affermare lì dove qualcosa possa essere di pericoloso, e certamente definire il mondo selvaggio e queste questioni erano argomenti scottanti su cui per l'appunto ci si poteva bruciare le dita e anche altro, sicché bisognava stare attenti. Credo però che effettivamente in questo mondo che stiamo studiando, cioè un mondo largamente compatto, no, con il mondo della Chiesa, si debba sempre considerare entrambe le questioni, questa forma anche di autocensura, di timore interno, questa consapevolezza forse di essere andati troppo in avanti, come nel caso della Costa con quella formula, la libido pro ratione utendi, e quindi il tentativo di fermarla. In questo senso questo gioco, no, questa attenzione è anche affascinante, ma certamente sono d'accordo su quello che tu dicevi. Due interventi, io chiedo scusa se sono costretto a richiamare al tempo, ma siamo oltre i limiti. Posso parlare in tedesco, perché non è una domanda ma un'osservazione che può spiegare un po' il problema dei neri indiani. Es geht um einen Jesuitenpater aus dem 17. Jahrhundert, ein portugiesischer Antonio Vieira, der also genau darüber auch schreibt, also der sich eingesetzt hat für eine bessere Indianergesetzgebung in Brasilien, der aber gleichzeitig schreibt, dass die Schwarzen deshalb versklavt werden sollen, weil die Indianer nicht zur Arbeit taugen und außerdem speziell dem portugiesischen König unterstehen und den Jesuiten direkt. Er legitimiert die Versklavung der Schwarzen aus den biblischen Traditionen, da ist nichts Neues. Also das wollte ich nur anfügen. Per inciso è molto opportuno il riferimento a Antonio De Vieira, perché è quello che ha scritto l'Historia do Futuro, per cui è colui che veramente costruisce questa filosofia della storia organizzata secondo questi ritmi dell'umanità che vi deve entrare. Spreche ich Deutsch? Sie haben, besonders wenn ich Sie richtig verstanden habe, hervorgehoben den eschatologischen Dimension. Archäologisch? Ach, eschatologisch. Eschatologisch, ja. Eschatologischen Dimension im jesuitischen Denken des 16. Jahrhunderts. Das ist für mich umso wichtig, weil wir haben innerhalb der jesuitischen Theologen in Chile einen besonderen Fall. Das ist Manuel Lacunza. Er lebte Ende des 18. Jahrhundert, starb hier, ist im Imola begraben, und er hat ein Buch geschrieben, der doch diesen eschatologischen Moment sehr stark hervorhebt. Es ist irgendwie eine Verbindung, kann man irgendwie eine Verbindungslinie herstellen zwischen das, was im 16. Jahrhundert war, und das, was Manuel Lacunza Ende des 18. Jahrhunderts geschrieben hat. Ich werde etwas anderes sagen, aber die Zeit ist schon sehr weit. No, la sua domanda è molto giusta perché si potrebbe ricordare un gesuita italiano di fine Settecento, il Roberti, che ha scritto un'opera proprio sulla tradizione escatologica, tra l'altro un'opera interessante perché è molto dotta. Quindi ritorna, no, in questa fine Settecento, questo tentativo di ritrovare una serie di tradizioni complessive della propria compagnia, quando però naturalmente questa non esiste più, sicché probabilmente nell'opera del Roberti c'è sicuramente questa dimensione molto forte dell'escatologia ed è un'opera molto interessante. La ringrazio di questa segnalazione perché non conoscevo quest'opera, quindi grazie. Giovanna Ferrari. Velocemente, io non conosco questi dibattiti. Lei prima ha accennato fra le ragioni che venivano addotte per negare umanità completa agli indiani, la mancanza di famiglia. Se non ho capito male, si ne legge, poi dopo però, parlando anche di altri, volevo sapere qualche notizia su questo, perché negare l'esistenza di famiglia presso gli indiani mi sembra eccessivo, francamente. E che ruolo ha avuto questa discussione, cioè che ruolo ha avuto l'argomento famiglia non famiglia in questa discussione? Immane. Non voglio rispondere con una parola, risponderò con tre, ma effettivamente è enorme. La famiglia è un... Basti dire questo, che a parte che poneva dei problemi di carattere proprio sacramentale, nel senso si potevano battezzare delle persone di cui non si sapeva lo stato maritale, coniugale, eccetera. Quindi a parte questa questione, però anche l'idea che si potesse vivere in più famiglie, in comunità molto larghe, in cui più nuclei vivevano in poche abitazioni e quindi c'era questa indistinzione, era qualcosa di scandaloso. E una delle forme che i gesuiti hanno seguito per europeizzare, come diceva prima il collega, era proprio quella di introdurre la famiglia, di operare questa distinzione. Quindi era uno degli scandali che forniva il mondo selvaggio, era questa indistinzione familiare. E anche lì, certo. Questo problema della regolamentazione delle famiglie, in realtà è passato attraverso questo dramma della scelta di una sola moglie, che costringe a scegliere tra l'intervento dell'Inquisizione o intervento amministrativo, è un problema complicatissimo. Io ringrazio, la discussione è stata molto ampia, mi pare che possiamo dire che il nucleo dell'interesse era anche nel fatto che ci trovavamo di fronte al tentativo più corposo e più maturo di integrare, no? Una delle domande che avevamo fatto all'inizio di questo colloquio era il processo di integrazione. Ecco, abbiamo visto molte forme di conoscenza, qui siamo davanti ad una delle più raffinate forme di integrazione, almeno nelle punte teologiche della Compagnia di Gesù, perché poi l'universo della Compagnia è molto vario e ci sono anche punte posizioni diverse. Quindi ringrazio Gerome Imbruglia per questa relazione e tutti gli intervenuti in discussione. Mi spiace solo se abbiamo debordato un po' nei tempi, ma grazie tanto.